9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Lo zoo comunale, lo zoo comunale è quello in cui i giornalisti e anche chi guarda le primarie tutti twittano, non fanno altro che twittare. Quindi da oggi in poi mi tocca salutarvi come Oscar Giannetto. Ma vi pare? Sì, perché mi ha chiamato Oscar Giannetto, quella che ha fatto la domanda a Renzi. Tutti su Twitter, risposta come se io avessi la cosa Giannetto. Sì, Giannetto, un mondo di Giannetti, meglio Giannetti che Giannettini, per chi ha una certa età si ricorderà. Comunque va bene, Giannetto vi saluta, ma twittate meno, leggete più libri, dico io. Si potrebbe andare tutti quanti, era che primavera, vengo anch'io. E a proposito di primavera, lo vogliamo dire che dovremo continuare a dedicare puntate, appuntamento agli imprenditori emiliani. Portiamo Radio 24 da voi una volta a settimana, perché continuiamo a vedere che la politica ieri non vi dà retta, non vi proroga le tasse. E giustamente ieri avete fischiato i parlamentari per le proteste per i meccanismi burocratici. Radio 24, Oscar Giannetto, appunto, verrà direttamente da voi e vediamo se servirà a qualche cosa. Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Allora, un mondo migliore è quello in cui ieri Monti esibisce per la prima volta un'attitudine berlusconiana. Lancia il tema della patrimoniale, 2 minuti dopo smentisce di averlo lanciato, 3 minuti dopo dice di starci pensando, 4 minuti dopo dice che però lui non ha i dati, 5 minuti dopo dice che ha detto che però non la metterà la notte, 6 minuti dopo ci si rende conto che non l'ha mai detto nel testo in inglese. Perfetto, ha lanciato un segnale politico, perché inizia tutti i giorni a pensare anche lui a una maggioranza, quella Bersani-Casini, questa è la mia interpretazione. E ieri non è un caso che nelle primarie alla fine Bersani sia rimasto solo con Casini, perché tutti gli altri che erano insieme a lui a rispondere alle domande a Sky gli hanno detto di no, ma ci sta anche Monti. Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no, no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. L'effetto che fa, ma vogliamo parlare di questa cosa che nel silenzio generale, o meglio, se ne parla un po' a Torino, ma è altrove, in Italia no. Ieri il Consiglio Comunale guidato da Fassino, con qualche esitazione, va detta, da parte di alcuni consiglieri del Movimento 5 Stelle e naturalmente anche alcuni del PD, ma la giunta PD guidata da Fassino fa un enorme regalo alla Fiat, un enorme regalo alla Fiat, signori e signore, perché in un'area detta la Continassa gli dà la bellezza di 350.000 metri quadrati, su cui era stato già avviato una gara, erano stati l'idea era quello di fare un'arena rock, il comune ci aveva speso già 6 milioni, nessuna arena rock, poi fanno una gara per fare un cartodromo, adesso ci ripensano e questi 350.000 metri quadrati viene concesso vicino all'area dello stadio alla Juventus per la bellezza di, sapete quanto, 0,58 euro al metro quadrato, raddoppiandone le cubature per la costruzione, 0,58 euro al metro quadrato, quindi lì un appartamento costa come minimo 1.500 euro al metro quadrato. Un bel accordo della giunta di sinistra, tutti a criticare la FIA, tutti pronti a fargli come al solito i regali interessati. Qui non parla il torinista, parla il torinese scandalizzato che ancora oggi questo sia il metodo di trattare aree pubbliche su cui erano stati buttati soldi pubblici, su cui poi c'è un tipo che ha vinto una gara per fare un cartodromo e adesso arriva la Fiat e i rossi al potere cosa fanno? Gli regalano tutto per 99 anni, vergogna! Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io. Va bene, fine, ma questa ultima cosa di Torino mi ha veramente fatto venire il sangue agli occhi, perché sembrano cose di tantissimi anni fa, quando magari erano i democristiani o i democristiani socialisti a farli. E adesso invece sono altri, ma la storia è sempre la stessa, e devo dire la verità, brava la Fiat che si porta a casa queste belle cose per la sua Juventus, pessima una politica che, dopo aver sbagliato e risbagliato su un'area pubblica e averci rimesso bei soldi, non immagina niente di meglio che mettere 0,58 centesimi per mettere centinaia di migliaia di metri quadrati con il raddoppio delle cubature edilizie. Non si tratta di essere anti-juventini, si tratta di avere un senso elementare di come si amministrano le cose pubbliche rispetto al prezzo che invece costano i privati. Allora, il tema della puntata, come sapete, l'abbiamo lanciato, è relativo alla cultura, un'emergenza del paese, ed è un'emergenza che andrebbe valorizzata moltissimo, messa a reddito con le risorse che la finanza pubblica non ha, messa a reddito con una matrice comune delle competenze che invece ci sono. E l'occasione per farlo sono gli stati generali della cultura che sono stati convocati il 15 novembre, si riuniranno a Roma, al Teatro Elisea, sono stati convocati sulla scorta di questo lunghissimo, profondissimo dibattito che è seguito al lancio del Manifesto per la Cultura fatto dal Sole 24 Ore il 19 febbraio scorso. E quindi al Teatro Eliseo a Roma, sotto il patrocinio dell'Accademia dei Lincei, dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, l'occasione per fare il punto su i diversi punti del manifesto, i 5 punti del manifesto che erano stati lanciati dal Sole 24 Ore. Si chiedeva una costituente per la cultura, cultura e ricerca secondo l'articolo 9 della Costituzione, si chiedeva una strategia di lungo periodo, quella di cui la politica non è mai riuscita a essere capace, come per una vera e propria ricostruzione economica del settore per renderlo attrattivo, si chiedeva finalmente una cooperazione snella ma efficace tra Ministero, mettendo al centro la funzione di messa a reddito del patrimonio, si chiedeva un recupero al quarto punto della cultura scientifica e dell'arte nell'impianto dell'offerta scolastica, infine il punto dei punti, quello dei meccanismi per rendere davvero complementari il pubblico e il privato, quindi davvero redditivo per il privato utilizzare risorse e capitali propri per riuscire a fare tutto ciò che altrimenti la penuria di finanza pubblica che rimarrà nei prossimi anni impedisce al patrimonio culturale di essere e di rappresentare per il PIL del paese, ma per l'arricchimento dell'intera umanità. Allora, abbiamo con noi per parlarne innanzitutto l'ideatore e colui che poi ha stilato il manifesto dal domenicale, dal supplemento culturale del Sole 24 Ore, Armando Massarenti. Buongiorno e grazie Armando. Buongiorno. E abbiamo con noi Andrea Carandini. Andrea Carandini, lo ricordate, archeologo, ex presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali, intrepido e battagliero protagonista di tutti i tipi di confronti pubblici nel nostro paese che tendano a volere rimettere il patrimonio artistico culturale del nostro paese al centro delle riflessioni delle nostre possibilità. Buongiorno e grazie al professor Carandini. Buongiorno. Allora, posso chiedere ad Armando se ci illustri intanto questi due indicatori che saranno offerti alla riflessione degli stati generali che si tengono il 15. Cioè, ci sono due indicatori che danno l'idea di come stiamo perdendo posizioni, per così dire, nel confronto internazionale, esattamente su ciascuno di questi temi. Come funzionano questi due indicatori? Ma dunque, gli indicatori io li riassumerei così. Se noi dobbiamo pensare che la cultura alta, quella a cui abbiamo sempre fatto riferimento durante tutta questa nostra discussione del manifesto, ha un valore, ha soprattutto un valore in sé. Dal brand che deriva da questa cultura, no, e qui cominciamo a esprimerci in maniera più economica, deriva tutta la costruzione di una industria culturale che fa riferimento a quel brand. Ecco, l'elaborazione che ha fatto Pierluigi Sacco mostra che noi perdiamo terreno, e uno degli indicatori mostra decisamente questa perdita di terreno, dal punto di vista proprio della nostra immagine a livello internazionale. Quindi un indicatore è un indicatore proprio di tanta capacità di esportare la nostra immagine, perché per esempio sono usati degli indicatori anche un po' anomali dal punto di vista della scienza economica, per esempio usando Google Harvard, no? Cioè tutti i testi che sono stati messi in rete e che mostrano che se faccio una correlazione tra arte e Italia, nel 1900, confrontando tutti i testi pubblicati in inglese durante il secolo, dal 1900 al 2000 l'indicatore era 600 e oggi siamo più o meno a 105, mentre altri paesi sono aumentati molto, per esempio gli Stati Uniti. E questo significa che noi perdiamo continuamente terreno sulla quella che è, forse non ho fatto a caso l'esempio dell'arte, quella che è la nostra immagine del mondo. Noi abbiamo un brand fatto di Rinascimento, di opera lirica ovviamente anche e di tante altre cose che nel mondo fa sì che gli italiani vengano identificati in questo, però stiamo perdendo terreno anche in questo. Poi l'industria culturale vera e propria, che ha tutta una serie di cose di molto dinamiche, il made in Italy insomma sostanzialmente, ma poi il food per esempio mi pare che anche sia una cosa che sale abbastanza nella considerazione, e il rapporto tra queste due cose ci mostra che noi non riusciamo a fare un collegamento tra la cultura in senso proprio e appunto l'industria creativa, che è quella che ha sofferto di più, che sta soffrendo di più. Cioè non si riesce a fare dell'Italia, che dovrebbe essere il paese più importante al mondo in tutto questo, il vero traino per una industria creativa, che è appunto il punto centrale del messaggio che noi vogliamo lanciare agli Stati Generali, con delle proposte molto, molto chiare che sono state enunciate ieri da Pierluigi Sacco proprio sulla copertina del Domenicale. Cioè, per esempio, accesso al credito, allo sviluppo dell'imprenditorialità creativa, costruzione di un'agenzia per l'esportazione della produzione creativa italiana e quindi anche di questa immagine che noi possiamo trasmettere nel mondo, una strategia per la valorizzazione globale dei brand culturali italiani, sull'esempio di una situazione molto interessante che è quella del Louvre, che è riuscito a dare un valore molto chiaro al proprio marchio facendo quell'operazione di Abu Dhabi e vendendolo per €1 miliardo. Ecco, allora quanti nostri beni, per tornare al rapporto tra la cultura in senso alto e poi la redditività dal punto di vista economico, quanti nostri brand, tipo gli Uffizi per esempio, di cui oggi peraltro abbiamo ospitato un bellissimo intervento di Antonio Natali, che è il direttore, possono avere un valore di questo tipo. Ecco, poi il quarto punto che noi proponiamo è appunto una maggiore capacità di integrare la produzione creativa nel manifatturiero di qualità, che pure ha avuto dei problemi dal punto di vista economico. Ecco, un po' questo è il quadro complessivo in cui ci muoveremo. Però appunto quello che a me preme sottolineare è che noi dobbiamo fare un'operazione di tipo culturale in due sensi: da un lato la cultura in senso proprio, che è poi quella che noi facciamo ogni settimana sul Domenicale del Sole, cioè far vedere che la cultura esiste, è molto viva, certo tra mille difficoltà, ma che quel livello lì non va mai dimenticato per quanto riguarda appunto la cultura artistica, la cultura letteraria e poi la cultura scientifica, che non sono affatto in contrasto tra loro, tra l'altro, come il manifesto cercava di mostrare. Ma dall'altro dobbiamo fare un enorme esercizio di cultura economica, cioè far vedere come l'economia della cultura sia necessaria in questo momento al paese, proprio per far capire l'emergenza proprio dal punto di vista dell'economia e del possibile sviluppo, cioè delle strategie di medio-lungo periodo che sono necessarie oggi all'Italia per ritornare a crescere. Ecco, se non si crede nella cultura è molto difficile che la crisi possa sfociare in qualche cosa di positivo, e anzi probabilmente continuerà ad avvitarsi su se stessa nel corso del tempo, finché non capiremo che abbiamo questo enorme tesoro da valorizzare, ma da gestire nel migliore dei modi, gestendo soprattutto il patrimonio di conoscenza innanzitutto, prima ancora di trasformarlo in qualche cosa che ha una sua redditività dal punto di vista economico. Questo è un po' il messaggio, tra l'altro, appunto, che oggi Antonio Natali ci ha lanciato attraverso il suo articolo. Allora, aspetta un secondo che ti interrompo per chiedere al professor Carandini, ma d'accordo, vi riunirete, parleremo, sentiremo, tenteremo di appassionare la gente, però partiamo da un punto che è quello che appare all'opinione pubblica comune che non segue approfonditamente i dibattiti sul tema. Siamo una specie di paese sospeso nell'incapacità, per mancanza di risorse e per mancanza anche di, come devo dire, di procedure efficaci nella pubblica amministrazione. Risorse e procedure efficaci, non riusciamo a preservare quello che abbiamo. Abbiamo immensità di cose, però cascano l'incuria, il tempo, l'ambiente, il dissesto idrogeologico, tutto contribuisce a rendere chiaro agli occhi di ciascuno di noi che non abbiamo la capacità e soprattutto le risorse necessarie per riuscire a preservare da una parte. Dall'altra siamo reduci da anni nei quali il dibattito anche all'interno dell'amministrazione pubblica volta ai beni culturali, alla tutela, alla loro promozione, sembra molto spesso non riuscire a uscire fuori da un confronto un po' ideologico tra chi preferisce tenere tutto nei depositi piuttosto che i cattivi privati ci possano mettere le zampe sopra per organizzare con qualche ritorno economico messa a reddito, e chi dice proviamoci, e poi questo confronto resta, secondo me, così ideologico che poi non si fa il vero passo avanti, visto che il passo avanti delle risorse pubbliche moltiplicate non è possibile, forse il passo avanti sarebbe quello di indurre i privati, senza ovviamente mai alienare a titoli proprietari, perché il patrimonio è pubblico e pubblico deve restare. Ecco, in questa alternativa tra le due cose, l'incuria e la mancanza di risorse e il confronto ideologico, professor Carandini, lei ha visto in questi ultimi anni, ci ha messo anche del suo, si è presa la responsabilità del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e così via, ha visto che qualche passo avanti è stato fatto oppure no, stiamo comunque arretrando e perdendo posizioni, secondo lei, e basta? Guardi, durante la mia presidenza del Consiglio Superiore è stato fatto un enorme sforzo di razionalizzazione del Ministero e delle procedure, per esempio varando il metodo della manutenzione programmata, che significa mantenere i beni spendendo poco in modo che non crollino, piuttosto che farli crollare e poi spendere un sacco di soldi per restaurarli. Però a questa diciamo ormai sofisticata impostazione metodologica hanno corrisposto semplicemente tagli, molti tagli. Adesso il Ministero gode di un 20% di spese di investimento, di fondi di investimento rispetto a quelli che sarebbe in grado di spendere. Quindi se noi se il Ministero è in grado di, diciamo, di restaurare 100, di mantenere 100 monumenti, ne mantiene 20 e gli altri vanno alla malora. Quindi c'è un grave peggioramento. Naturalmente si capisce, c'è la crisi, l'Italia stava per essere commissariata, tutto è stato tagliato anche il Ministero. Quindi il Ministero è in situazione preagonica, se non già agonizzante. E che senso ha mantenere un ministero che poi costa in stipendi, se poi questi medici dei beni culturali non possono curare questi beni culturali? Allora aboliamo il ministero, aboliamo l'articolo 9 della Costituzione e lasciamo che tutto vada alla rovina. Ma se invece così non dobbiamo fare, credo che non dare a questo ministero un minimo di funzionalità è un errore colossale che poi noi pagheremo drammaticamente negli anni a venire, perché ormai sono anni che noi non manteniamo più i nostri beni e quindi la situazione è veramente spaventosamente grave, per cui se nel prossimo governo non ci sarà un minimo di svolta da questo punto di vista, io sono veramente molto pessimista, e sono pessimista non tanto perché mancano i soldi, quanto perché manca la consapevolezza. Sulla consapevolezza è intervenuto di recente il Presidente della Repubblica. Lui vede che non c'è consapevolezza diffusa dell'importanza della cultura mi pare che abbia detto, sia nella politica che nei media. Naturalmente bisogna fare l'eccezione del Sole 24 Ore, ma se noi guardiamo un pochino le dichiarazioni dei vertici delle istituzioni, se noi guardiamo i grandi editoriali firmati dai direttori di giornali e che elencano che cosa dovrebbe fare il governo, lei vedrà che la cultura non è, nei programmi dei politici, lei vedrà che la cultura è un miracolo se appena viene nominata. Quindi c'è un problema di consapevolezza. Mazzarenti ha ragione, il brand, ma la cultura non serve solo al brand, serve anche a formare i cittadini in modo che possano poi produrre anche in modo intelligente, sofisticato, con qualità. Nei servizi, e credo che la possibilità di trovare nuovi posti in futuro non sarà tanto nell'industria quanto nei servizi la cultura è un elemento discriminante. Abramavel questo lo ha sempre molto ben visto, però noi continuiamo a calare nel turismo perché non abbiamo nemmeno dei minimi portali informatici che possano essere letti in inglese da un indiano che vuole sapere Parma che cos'è. Stiamo parlando degli Stati Generali della Cultura, delle quattro proposte che si aggiungono, ci sono state illustrate da Armando Massarenti, direttore del Domenicale, su cui da febbraio scorso iniziò questo grande dibattito, questo manifesto per rimettere al centro la cultura delle priorità politiche, pubbliche, civili e anche economiche del nostro paese, anche economiche, perché seppure senza ridurre a questa dimensione la nostra storia, il nostro patrimonio culturale, monumentale, architettonico, museale, però è anche una delle componenti che di solito integra e moltiplica la capacità dell'offerta di attrattività di un paese, e Dio sa se ne abbiamo bisogno, questi punti su punti che abbiamo perso nelle graduatorie di attrattività turistica. Ma è anche una maniera poi per mobilitare risorse, intelligenze, per interrogarsi sul nostro passato e riproporlo incessantemente come matrice alta a cui guardare senza smarrire in maniera sempre più desolante e quotidiana la nostra realtà fatta di visioni e orizzonti sempre più ristretti rispetto alla grandezza invece che per secoli e millenni è stata la storia del nostro paese. Di questo stiamo parlando e vediamo un altro aspetto che c'è stato fin dall'inizio, sfidando anche qualche luogo comune invece che guarda con ostilità alle risorse private per la messa a reddito del patrimonio, e si è giunto con noi per darci un'opinione Filippo Cavazzoni, che è il direttore editoriale dell'Istituto Bruno Leoni, e per il Bruno Leoni segue proprio i temi della politica, della cultura, dello spettacolo, in particolare quello dell'apertura dei finanziamenti ai privati. Buongiorno Cavazzoni. Buongiorno. Ecco, da questo punto di vista posso chiederle, per Bruno Leoni, per l'attività che svolgete voi tentando di aprire le maglie dell'ordinamento agli incentivi, al miglioramento della possibilità per i privati di investire sulla messa a reddito del patrimonio. In questi anni sono stati anni, dal vostro punto di vista, di stasi, di arretramento o qualche cosa di buono, il tax shelter, che ne so, per esempio per il finanziamento privato della filmografia italiana, si è mosso? Che bilancio farebbe lei? Sì, diciamo che in questi ultimi anni qualcosa si è mosso nella direzione giusta, anche se purtroppo si è fatto troppo poco. E proprio in queste ultime settimane abbiamo avuto degli esempi molto chiari di come in Italia il rapporto fra pubblico-privato, fra politica e cultura sia un rapporto distorto. Quindi io vorrei fare solamente tre esempi che secondo me sono molto chiari di come questo rapporto sia da ricostruire, proprio per avvicinare i privati e non per tenerli lontani. Ad esempio tutto il discorso che si fa intorno alla Fondazione La Grande Brera, dove da una parte ci sono quelli che gridano contro questa nuova forma di gestione della Pinacoteca di Brera, che dicono che lo Stato in questo modo abdica al proprio ruolo, chi invece è favorevole a questa nuova forma di gestione proprio perché permette di coinvolgere i privati nella gestione. Vorrei ricordare che allo stato attuale la Pinacoteca di Brera è un museo statale ed è sostanzialmente un ufficio periferico del Ministero e non ha pertanto autonomia finanziaria e amministrativa. Quindi passare verso una forma di gestione più flessibile, come quella della fondazione pubblico-privata, che consenta di entrare nella gestione ai privati penso sia già un passo in avanti. Poi abbiamo avuto l'esempio del Maxi, dove il Ministero ha nominato al vertice un politico attivo, che fa politica attiva per un partito, oppure anche il caso del Teatro Massimo di Palermo, dove c'è un sindaco che è anche il presidente della Fondazione Lirico-Sinfonica e che ha sostanzialmente sfiduciato un sovrintendente che, lo dice la Corte dei Conti, ha risanato il bilancio del proprio teatro e ha messo in essere una gestione virtuosa. E in Italia una persona che gestisce in maniera virtuosa un'istituzione culturale viene fatta fuori da un sindaco che ha potere decisionale all'interno di tale istituzione culturale, quando invece dovrebbe rimanerne fuori. Quindi questi sono tre esempi per dire come rapporto pubblico-privato, politica-cultura sia da ricostruire. Allora, io lo dico perché tanto il bilancio quotidiano di quello che avviene nel patrimonio culturale ogni giorno, ci sono episodi come quelli che oggi i milanesi trovano per esempio in apertura delle loro pagine di cronaca, è crollato il muro del Settecento dell'orto botanico proprio a Brera, orto botanico abbandonato, ci risiamo esattamente al tema lanciato dal professor Carandini, le risorse non ci sono, e Brera è esattamente uno di quei casi classici richiamati adesso da Filippo Cavazzoni, come non si riescano poi a superare queste diffidenze. Professor Carandini, ma a chi addita un pezzo di amministrazione pubblica, anzi un pezzo di alta dirigenza proprio dell'amministrazione del MIBAC, dei beni culturali, come se si fosse intestata nel tempo la titolarità di una diffidenza strutturata rispetto a possibilità di incrementare l'area dei privati, che ne so, estendendo l'incentivo fiscale che oggi è previsto per le donazioni anche alla sponsorship per organizzare eventi. È vera secondo lei l'accusa di chi dice fondamentalmente è innanzitutto l'amministrazione pubblica del MIBAC a considerarsi custode di tutto e a diffidare dei privati? Nella sua esperienza guidando il Consiglio Superiore ha verificato che è così, o anche lì le teste sono un po' cambiate, i tempi sono diversi, tutti hanno capito che i soldi pubblici sono finiti? Diciamo lo scontro ideologico non è mai morto, si tratta di vedere di volta in volta. Allora, le fondazioni in sé possono anche funzionare, ma dipende come sono fatte. Cioè, a mio avviso lo Stato non deve smobilitare per avere i privati. Non è vero che lo Stato deve smobilitare, deve aprirsi alla gestione dei privati, che è consentita dal codice dei beni culturali, quindi non c'è niente da innovare dal punto di vista giuridico. Naturalmente, se poi si fanno delle fondazioni in cui lo Stato perde il controllo del bene, in cui invece di mettere degli scienziati mette dei politici, come da poco è stato detto, allora naturalmente tutto questo dà ragione agli statalisti più inveterati. Quindi purtroppo in Italia le cose sono complicate, perché non abbiamo una grande storia di fondazioni virtuose, ecco, questo è il punto. Quindi hanno in parte ragione quelli che diffidano e hanno in parte ragione quelli che invece vogliono aprirsi al privato. Naturalmente poi il privato non si aprirà mai finché non ci sono agevolazioni fiscali, soprattutto per esempio riduzioni dell'IVA per tutti i lavori di manutenzione dei beni culturali. Questo è un punto decisivo. Ci fu una legge Scotti negli anni 60 che ridusse l'IVA, e questo produsse un enorme sviluppo di piccole ditte di restauro che lavorarono, eccetera. Poi tutto questo è stato cancellato e adesso noi abbiamo un'IVA molto alta, e così possiamo andare avanti. Quindi è tutta una cosa, effettivamente il termine giusto è da ricostruire, ma non come privato contro Stato, Stato contro privato, ma formando sistema. Cioè, qui bisogna arrivare a dei sistemi e a trovare anche quelle forme di fondazioni che siano opportune per i singoli casi. Non c'è una legge generale. Per esempio, per Brera è stata imitata, mi pare, la fondazione del Museo Egizio. Può essere una soluzione, ma forse si poteva anche scegliere un'altra formula. Credo che lo Stato non deve mantenere il controllo, diciamo, diretto della tutela su questi beni. Non devono essere dati in concessioni per 30 anni, secondo me. Questo non fa bene e soprattutto non è necessario. Quello che è necessario è dare spazio alle gestioni dei privati, in modo che i privati possano effettivamente esplicare la loro creatività, possano esercitare il loro ruolo di sussidiarietà. Questo è fondamentale e io penso che da questo punto di vista c'è una maggiore apertura. C'è una maggiore apertura rispetto al passato. Eccoci qua. Beh, Jim Morrison ci ricorda sempre che siamo finiti, per così dire. Siamo finiti come esseri umani, meglio non ricordarlo bene. Noi siamo finiti come missione, la nostra missione è accrescitiva, come ovvio. Abbiamo dei limiti in questo essere finiti, vuol dire qualcosa di diverso da non credere nel futuro. Vuol dire avere dei limiti e ricordarselo. L'imperfezione umana di cui chi è portatore di semi di una cultura del dubbio, come il sottoscritto, è convinto rispetto a chi invece crede di essere il depositario del vero. Sentiamo su questi temi degli stati generali della cultura che iniziano il 15, ricordo tutti, Teatro Liseo a Roma, sul manifesto lanciato dal Sole 24 Ore. Come la pensano ascoltatori, un paio di ascoltatori e poi una considerazione finale con i nostri ospiti. Sentiamo Francesco innanzitutto, Francesco da Roma, prego Francesco. Buongiorno Giannino, a mio modestissimo avviso i problemi della cultura e della conservazione dei beni cominciano, nonostante i buoni intendimenti di chi lo concepì, con l'istituzione del Ministero dei Beni Culturali. Prima, quando tutto dipendeva dal Ministero della Cultura, invece, della pubblica istruzione, uomini di grande caratura intellettuale avevano sia i mezzi culturali sia i mezzi materiali per intervenire direttamente sui monumenti. Io nella mia modesta, diciamo, esperienza, sono architetto e ho fatto anche un po' di ricerca e di docenza a contratto, quando mi avventuro dentro i meandri e le stanze proprio fisicamente del Ministero, prima di incontrare un archeologo, un geometra, un architetto, attraverso corridoi pieni di uscieri, entrieri, faccendieri, camminatori, siamo al solito problema, un'eccessiva compartimentazione tra chi deve prendere le decisioni, tra chi conosce, chi ha lo strumento intellettuale e chi poi deve attuare. Cioè lei dice che paradossalmente istituire un'amministrazione ad hoc è stato peggio di quando era accentrata e quindi più focalizzata sotto il Ministero della Pubblica Istruzione. E certo, perché uomini come Amedeo Maiuri, Spinazzola, Pompei, Corrado Ricci sapevano come intervenire sui monumenti e nel bene o nel male, il giudizio lo lasciamo ai posteri, poi lo facevano, lo attuavano. Va bene, allora questa è un'opinione di Francesco, la complicazione burocratica non ha fatto bene con l'istituzione del MIBAC. Daniele da Milano invece, Daniele come la pensa? Grazie Giannino per avermi chiamato. Io volevo buttare sul tavolo un'altra piccola cosa. Io sono responsabile per una multinazionale dell'immagine e della comunicazione. Molto spesso mi chiedo, questo mecenatismo nuovo delle aziende, che magari è legato anche a operazioni di marketing, però alla fine in sostanza aiuta molto la cultura, ma perché è visto sia dal pubblico che dai media certe volte con un po' di ipocrisia pelosa, per cui lo sponsor viene visto come un cugino di quinta classe, quindi viene coccolato all'inizio nel momento in cui deve fare il contratto per sostenere operazioni culturali importanti e poi successivamente non si vede più. Allora io credo non tanto per un'azienda come la mia che è veramente importante e grande e ha visibilità, ma per tante piccole aziende che potrebbero aiutare operazioni culturali anche a livello comunale, aiutarli un po' a avere un minimo di visibilità, una piccola cosa potrebbe essere di grande aiuto anche per il patrimonio culturale del paese. Allora, questo che mi sembra uno dei temi centrali, almeno per come me ne sono occupato io, credo che il passo avanti è stato lento, quello di cui parlava Filippo Cavazzoni. Allora, sentiamo un po' come la pensano Armando Massarenti e Filippo Cavazzoni su questo tema, cosa si può fare di più per aprire ai privati da portare nelle risorse, vincendo questo pregiudizio di chi pensa, anche se sono una sponsor, no, vuoi mettere le mani e farti un improprio retornaconto personale su un patrimonio che è di tutti. Armando Massarenti, secondo lei che cosa in concreto si può sperare di che avvenga nella politica a breve per questo? Ma dunque, riferendomi proprio agli stati generali di giovedì, dovremmo sottolineare il fatto che sarà presente il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che farà un intervento alla fine della mattinata. Questo è importante perché Napolitano era già intervenuto sul nostro manifesto presentando l'anniversario del FAI, del Fondo Ambientale Italiano, cioè l'esempio proprio di un'istituzione che agisce per il bene pubblico, ma che è un'istituzione privata. Allora questo credo che sia uno degli esempi che devono essere tenuti sempre assolutamente presenti. E per il resto il problema è proprio quello del rapporto, come diceva bene Cavazzoni prima, oltre che tra pubblico e privato, tra politica e cultura. L'esempio di Cognata è da manuale, cioè la politica dura nel momento in cui c'è una buona gestione. E quindi poi fa la guerra a chi tra l'altro è un economista. Il sovrintendente Cognata di Palermo è un economista, insegna anche economia politica all'università e ha ben presente questi problemi. E bisogna pensare anche che quando si parla di sgravi bisogna giustamente sottolineare la parola incentivi. Sgravi, certo. Cioè, devono essere degli incentivi reali, perché davvero i privati, attraverso forme di sponsorizzazione, ma anche quello che è il contrario della sponsorizzazione, cioè il fatto che per esempio i marchi di cui dicevamo prima, gli Uffizi, tutto ciò che noi abbiamo di fortemente simbolico nel nostro sistema dei beni culturali, possa a sua volta essere produttivo, no? L'esempio, certo, del Louvre mi sembrava illuminante da questo punto di vista. Come ha funzionato, con la matrice in cui si mette insieme politica, tecnici del ramo, economisti. Però Cavazzoni, in Italia sono gli economisti che devono proporre di più il miglioramento del rendimento del patrimonio, o sono gli uomini di cultura che devono fare il passo per l'economia, da come l'ha capita la cosa? Che, come diceva il professor Carandini, gli strumenti giuridici, la normativa attuale consente un ingresso maggiore di privati e quindi di logiche imprenditoriali per quanto riguarda la gestione del patrimonio. Sono sottoutilizzate, ad esempio il codice dei beni culturali prevede che la gestione, quindi la valorizzazione, possa essere affidata in concessione a soggetti terzi, che possono essere privati. Anche a livello locale, dove c'è stata un po' più di innovazione, un pochino più di coraggio, c'è la possibilità di concepire i servizi culturali come servizi pubblici locali e quindi aprirli alla concorrenza attraverso gare, creando nuovi spazi per nuovi soggetti e creare nuovo dinamismo. Quindi insomma utilizziamo meglio strumenti che intanto già ci sono, e però rompiamoci anche la testa su come modificarli e migliorarli. Io ringrazio Filippo Cavazzoni, ringrazio Romano Massarenti, appuntamento per tutti il 15 all'Eliseo a Roma, Stati Generali della Cultura. Saluti da Oscar Giannetto d'ora in poi, a domani.